A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt. Pela primeira vez em Portugal, Luan Santana, ao vivo. Dia 9 de novembro, Lisboa, Pavilhão Atlântico. Dia 10 de novembro, Porto, Pavilhão Rosa Mota. O concerto mais aguardado. O artista número 1 do Brasil traz o disco mais esperado do ano. CD Quando Chega a Noite, de Luan Santana. À venda em CD e iTunes. Luan Santana, dia 10 de novembro, Porto, Pavilhão Rosa Mota. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Bem-vindos a mais um Tempo de Antena aqui na Rádio Antena Web. O que é nacional é bom. Carlos Bonaparte também concorda. Por isso, traz-nos uma hora completa de música portuguesa. E ainda entrevistas com os nossos artistas nacionais. Desde músicas e bandas, até pintores, escultores, atores e realizadores. Venha conhecer os tesouros que temos no nosso país, das 18 às 19, todas as sextas-feiras, na Antena Web. O que está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. Na Antena Web, dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um programa que, mais do que a música, aborda a cultura e os costumes da Irlanda. Sound Irish, um programa de locução inglesa, com a apresentação de Joe Bollard, todas as quintas às 17 horas na Antena Web. As notícias mais importantes dos últimos dias são dadas aqui, na Antena Web. Semana em Minutos, um programa apresentado por Catarina Navio, que traz durante 30 minutos, nas mais diversas áreas, os acontecimentos mais relevantes. Fique bem informado neste resumo semanal. Semana em Minutos, todos os sábados, às 9 da noite, na Antena Web. Tocam agora as melhores músicas em inglês. Signore, io sono Irish, quello che non ha la bicicletta. Tu lo sai che lavoro e alla sera le mie reni non cantano. Tu mi hai dato il profumo dei fiori, le farfalle e i colori e le labbra di Esther create da te, quei suoi occhi incredibili solo per me. Ma c'è una cosa, mio signore, che non va. Io che lavoro da Lancaster a 30 miglia dalla città, io nel tuo giorno sono stanco, sono stanco come non mai. E 30 miglia più 30 miglia sono tante, a piedi lo sai. E Irish, tu lo ricordi, signore, non ha la bicicletta. Nel tuo giorno le rondini cantano, la tua gloria nei cieli. Solo io sono triste, oh Signore, la tua casa è lontana. Devo stare sul prato a parlarti di me, e tu sai che io soffro lontano da te. Ma tu sei buono e fra gli amici che tu hai, una bicicletta per il tuo Iris certamente la troverai. Anche se è vecchia non importa, anche se è vecchia mandala a me, purché mi porti nel tuo giorno, oh mio Signore, fino a te. Signore, io sono Iris, quello che verrà da te in bicicletta. Oh, ma ti senti felice e ti domandi perché. Antena Web, sintoniza-te. Svegliarsi un giorno io e te in mezzo a un prato, io e te, e far l'amore io e te, e addormentarsi tra gli alberi. Dopo l'amore, io e te saremo liberi, io e te, di dirci addio o incominciare un'altra vita, quella vita che tu non vuoi più. La verità è in fondo agli occhi tuoi, la vita mia è negli occhi tuoi. Io penso a te, ma è inutile, tu ami un altro ormai, vita fiorisce già fra le tue mani. Svegliarsi un giorno io e te in mezzo a un prato, io e te, e far l'amore te, e addormentarsi tra gli alberi. Come morire forse è meglio che io gli vada incontro. Gli dirò, io non gli dirò niente, tutto bene adesso che sei qui. Antena Web. Sintonizzati, sintonizzati. Ricordo che ero ancora ragazzino, ma come un uomo lavoravo già. La mia canzone era questa qua. Certo la terra costa fatica, sempre di più e sempre di più. Certo la terra è come una donna, ogni stagione cambia la gonna. È gialla d'estate, grano maturo, rossa d'autunno, vino sicuro. E verde oliva se viene l'inverno, a primavera si veste da sé. Chi ce l'ha? Na, na, na, na. Vado a lavorare, ma il mio cuore dove va? Cerca un fiore che non ha. E se è una rosa, lasciatela cogliere a me. Venne l'estate e colsi la rosa, viva lo sposo, viva la sposa. Più si fa notte e più mi innamoro, ma quando è giorno è doppio lavoro. E lavora col sole, lavora col vento, si parte all'alba e si torna al tramonto. Ma con la luna e cielo sereno, mi stendo sul fiero. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a fare in maniera. Te fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi un fiore, fiore del lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mi rintontoniva de bugie. Canzone belle appassionate, che Roma mia mi ricordate, cantate solo per dispetto, ma con una smania trenta al petto. Io non ve canto a voce piena, ma tutta l'anima è serena, e quando il cielo si scolora, e me nessuna si innamora. Tanto per cantare, perché me sento un friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi un fiore, fiore del lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mi rintontoniva de bugie. Tanto per cantare, perché me sento un friccicone nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto me ce naschi un fiore, fiore del lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie, e mi rintontoniva de bugie. Aos domingos, pelas 12 horas, a Rádio Antena Web apresenta Conversas Aleatórias, um espaço onde se debatem temas, onde se apresentam e se analisam situações do panorama atual. Conversas Aleatórias, um espaço para pensar e refletir, aos domingos, entre as 12 e as 12h30, com a apresentação de Carlos Bonaparte, Nuno Miguel e Joaquim Pereira. Só aqui, na sua Antena Web. Eles fizeram sucesso, mas o tempo encarregou-se de os deixar esquecidos. Nós pretendemos reavivar a memória dos que os conheceram ou apresentá-los a quem nunca ouviu falar deles. São artistas dos anos 20 aos anos 60, britânicos e norte-americanos, regra geral. Cantaram bem ao estilo da sua cultura, temas que agora vamos trazer para si, todos os domingos, entre as 10h30 e as 11 da noite. De Tamisa a Yellowstone, um programa para descobrir ou recordar na Antena Web. Semanalmente, a Antena Web apresenta-lhe Odisseias. o programa apresentado por João Marques, que se dedica a traçar um percurso durante cerca de 60 minutos. Um percurso que tanto poderá ser por um país, por uma cultura, por uma época, artista ou género musical. É um percurso e, como tal, com inúmeras coisas para descobrir. Por isto, convidamo-lo a juntar-se a nós todas as quartas-feiras, pelas 22 horas, para assistir a este espaço radiofónico. Odisseias. Todas as quartas-feiras, às 22 horas, com João Marques, na Antena Web. Porque a Antena Web deseja ser mais a sua rádio e aproximar-se cada vez mais de si, apresenta Panorama Agrícola, um programa diário de segunda a sexta-feira que lhe traz algumas dicas e notícias que de certo vão ajudar e orientar no seu dia-a-dia. Panorama Agrícola, um programa da EPAGRI, de segunda a sexta-feira, às 20 horas, aqui na Rádio Antena Web. su nel cielo e con ansia aspetto che cadano le gocce di rugia lassù di me. Puoi cercare il sole per non vincerlo se vuoi. Dammi coi suoi raggi la sua sistemarsi, mi dicevano gli amici. Io con loro mi arrabbiavo, tutti porci li chiamavo e come no. Voi parlate per invidia, non vedete che è sincera e anche se lei mi sposasse per i soldi, cosa importa a voi? Ma cosa avete dentro il cuore? Beh, gli amici mi ritrovo, voi parlate, non capite, non mi importa del suo amore, a me basta che rimanga una vita insieme, meglio l'amo tanto. piacevano i gioielli, le pellicce di visone, le piacevano i regali. Alla lunga i suoi capricci mi asciugavano le tasche e rimasi senza soldi. Lei mi dice: cosa aspetti, vuoi mandarmi sulla strada? Pensa un po'. L'uomo furbo rischia grosso, tenta un colpo e gli va bene, ma però mi andò male il colpo gobbo, una ruota in curva mi scoppiò. E mentre mi portava via, c'era un uomo alle sue spalle, si faceva accompagnare. Mentre mi portava via, io guardavo le sue mani che stringevano altre mani, e dal mio pianto non si voltò. Stare dentro è un inferno, uno pensa tante cose, mi prudevano le mani. Il mio cuore traboccava di un amore senza fine, la volevo perdonare. Finalmente sono fuori, lei mi dice: delinquente proprio a me. Lì per lì non ci ho più visto, l'ho afferrata per la gola e sempre più la stringevo forte, gli occhi suoi sembravano più grandi. E mentre mi portava via, erano bianche le sue mani, era fredda la sua pelle. Io guardavo e non capivo, mentre mi portava via, erano mani le sue bianche, era pelle la sua fredda. C'era il treno sulla nebbia, e mentre mi portava via, c'era nebbia sulla fredda, era treno la sua bianca. La maestra mi picchiava, e mentre mi portava via, mi picchiava. Vivevo sola sola in un paese lontano, di là dal mar. Una sera me ne andavo in compagnia di nessuno a passeggiare, fra mille luci colorate e mille jukebox che suonavano motivi di jazz. Una nota conosciuta si levò e il mio cuore in quel momento si fermò. Un tango italiano, un dolce tango, ho sentito una notte suonare sotto un cielo lontano. Quel tango italiano, quel dolce tango, col pensiero mi ha fatto volare dal mio amore lontano. In quel momento sull'ali del vento avrei voluto andare e dal mio amore il mio cuore scoprire. stato un richiamo d'amor al mio stanco e nostalgico cuore, e mi ha fatto per sempre tornare dal mio amore italiano. Antena Web, sintoniza-te. Se scappino la stima, voi